Adesso voglio che mi ascolti. Ok, 2009, nuove prove, strofe nuove, posa, l'espressione. Ho scelto il mezzo, in mezzo tra chi apprezzo e chi disprezzo, chi ha la puzza sotto il naso senza olezzo. Entro nella base, le frasi le stampo a laser, rassicurandomi, curandomi, metrica in giusta fase. Assetto in sta musica, dentro come un cassetto, frenetica pratica in grammatica nell'intelletto. Apro il cofanetto, ettometri di strofe, rivelo come a Mametto quando Gabriele ha detto: la situazione è questa, tra testa male, mala testa, estrapolando codesta fresca, melodia dalla tempesta, tempestato di valori, non diamanti ori, non contanti ma tanti piani sono. E corri, corri, sei le gambe ogni istante, segui la strada, tieni la mente, il percorso se si dirade che vada, la frequenza in testa alle persone, solo un assaggio, buon ascolto, buon viaggio, l'espressione.